rispetto ai problemi che oggi la società pone. L'idea di farlo tornare per un incontro di questo tipo è un po' frutto di questa combinazione di attività che insieme a Family Party e all'altra associazione No Limit Professional Organization abbiamo pensato di organizzare unitamente al Centro di Orientamento Familiare di Catania, che come sapete da molti anni svolge attività di formazione e di promozione per la tutela della famiglia. E io già Maurizio vi ha detto parecchio riguardo l'organizzazione logistica, ringrazio ancora, vi chiederei anche il contributo di una partecipazione attiva nel momento in cui, dopo la relazione del professor Poterzio, quindi subito dopo il pranzo, ci sarà spazio per un dibattito, perché mi sembra importante riflettere insieme su questa tematica di grandissima attualità e di grandissimo rilievo per ciascuno di noi. Colgo l'occasione altresì per ringraziare la giornalista Carmela Marino, che modererà la mattinata, poi per impegni familiari dovrà assentarsi, però insomma faremo in modo di far tesoro di questa presenza del professore Poterzio qui a Catania. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, buona domenica innanzitutto, perché ricordiamoci che oggi è domenica, quindi doppiamente grazie per essere qui, anche se siete qui appunto, tutto è stato organizzato proprio pensando alla famiglia, infatti in questo incontro organizzato dal Centro di Orientamento Familiare di Catania con la collaborazione di Family Party. Mi pare che sia stato detto abbastanza sull'organizzazione di questa giornata, e la presenza appunto del professor Franco Poterzio, tra l'altro già presenza nota a questa SISE, perché come ne ricordavo poc'anzi Giovanni Di Rosa è stato appunto ospite di Scienza e Vita nello scorso mese di marzo per parlare e affrontare sempre una tematica familiare, e oggi è sempre molto importante affrontare queste tematiche. Dicevo poc'anzi al professore che un mio amico e collega sdrammatizza molto dicendo sempre non c'è bisogno di ricorrere e di leggere manuali per educare i figli, per sapere come ci si debba comportare come genitori, però i tempi sono quelli che sono e quindi necessitano non tanto forse di manuali, ma sicuramente di incontri e confronti come questo. E che dire ancora? Io passerei appunto la parola al professor Franco Poterzio, che terrà una sicuramente interessantissima, su questo non ho dubbi, relazione sul ruolo del padre. E qui tanto si potrebbe dire un ruolo sicuramente importante sempre per quello che oggi sono i nostri tempi, un ruolo che sicuramente è cambiato. Raccontavo proprio al professore che nei giorni scorsi mi è capitato di assistere ad una trasmissione televisiva in cui appunto si parlava del ruolo del padre e si diceva finalmente oggi ci sono i padri. E probabilmente anche il professore affronterà questo, questo aspetto del confronto tra i padri di ieri e i padri di oggi. E quindi a questo punto lo ascoltiamo veramente con tanto interesse. Professore Poterzio, ricordando tra l'altro, scusate, dando per scontato che il professore è figura nota a questo pubblico, che il professore è un ex docente di clinica psichiatrica dell'Università di Milano, quindi qualora ci fosse qualche dubbio, una persona assolutamente competente e di grande spessore. Professore, a lei la parola. Vi vedo meglio in faccia, se no non ho. Ho visto che tutto qui è attrezzato per la musica jazz e io non ho questa capacità. Posso provare a fare il trombone, vediamo un po' se voi accettate questo ruolo. Come avete sentito, parlare del ruolo del padre è... No, no, no, assolutamente, ma va troppo bene. Parlare del ruolo del padre significa parlare a delle famiglie. Mi sembra che qui tutti voi che mi ascoltate avete la vostra famiglia. Cioè, ci sono dei genitori che vogliono investire in famiglia. cosa vuol dire investire in famiglia? Assumere un atteggiamento di professionalità e di imprenditorialità. Professionalità vuol dire studio, vuol dire riflessione, vuol dire anche, in qualche caso, letture specifiche, ma soprattutto vuol dire scambio di esperienze tra marito e moglie in primo luogo. Prego, prego. E quando si dice professione genitore, al giorno d'oggi, non si dice uno slogan, una bella parola. Imprenditorialità oggi è una funzione particolarmente richiesta ai genitori, padre e madre. Ossia, cosa vuol dire imprenditorialità? La famiglia come impresa, non solo la famiglia come professione, perché la famiglia non è più così sostenuta da un clan, sostenuta da una tradizione che bene o male doveva procedere secondo linee evolutive, ma in questo momento la famiglia è più sola. E quindi l'impresa familiare è qualcosa di particolarmente delicato e importante. Dove sta andando la mia impresa familiare? Quale capitale affettivo possiede la mia famiglia? Quali investimenti posso fare per il futuro? Quali promozioni? Quale buona manutenzione del clima della mia famiglia? Sono aspetti molto importanti, per cui professionalità e imprenditorialità. Quanti consigli di amministrazione faccio io con mia moglie per vedere dove sta andando la mia famiglia? E se li faccio, come li faccio? Ecco allora che è importante rendersi conto di alcuni fenomeni che al giorno d'oggi possono portare delle trasformazioni nel ruolo del padre, delle trasformazioni nell'ambito della famiglia e delle trasformazioni nell'ambito proprio del rapporto con la prole. A cosa possiamo imputare questi fattori trasformanti che possono ovviamente produrre anche delle patologie? Allora, il primo punto è una particolare fragilità della coppia oggi. Ossia, come ben sappiamo dall'evoluzione della nostra società, oggi non viene protetta la coppia giovane. Il matrimonio avviene molto tardi, perché il posto di lavoro implica un itinerario piuttosto lungo e difficoltoso per poter conseguire una posizione stabile. E allora esistono delle convivenze prolungate tra uomo e donna, coppia sposata o convivente non si sa, ma diciamo pure coppia convivente, dei prolungati modi di stare insieme che non sempre danno un esito in stabilità della coppia, quella stabilità tra uomo e donna necessaria perché la prole cresca in modo adeguato. Spesso la coppia convivente è costretta a, quindi non ancora stabilizzata in famiglia, è costretta ad agire a livello ludico per mero piacere e per rimanere insieme in qualche modo la propria sessualità. La coppia spesso ha molta paura oggi della generazione e lo si vede anche parlando con giovani si fa per dire 35, anche 40 anni, che non fanno delle fantasie, dei sogni, dei desideri di essere padri rispettivamente madri, però hanno una gran paura di star da soli. Come noi sappiamo, sono in notevole aumento le separazioni e i divorzi. Basta guardare l'Istat, si vede che dal 1980 ad oggi sono quadruplicati i divorzi e le separazioni in Italia. Poi esistono al giorno d'oggi dei fenomeni come le separazioni tardive, ossia a 50 anni o 60 anni una coppia non riesce più a stare insieme. Esiste ancora, siamo sempre nel tema della fragilità della coppia, una difficoltà ad essere vicini ma non simbiotici, insieme ma non dipendenti, cioè non sanno volersi bene continuativamente, fedelmente nell'amore ma nella libertà, uniti ma non legati, collaboranti, capaci di condivisione, ma non soltanto coabitanti. E molte volte non c'è questa capacità di stare al fianco per una mancanza di accettazione, di paritetica, non come uomo-donna, marito e moglie. Dobbiamo proprio tornare ad Adamo ed Eva per capire la situazione. Voi sapete dalla Sacra Scrittura che Dio ha detto che non è bene che l'uomo stia solo e vuole dare un aiuto al fianco, al fianco. Da questo fianco, cioè da una costola, esce Eva. Antropologicamente, fianco, costola, cosa vuol dire? Non davanti, non dietro, non sopra, non contro. E quindi è la pariteticità. Questa pariteticità è spesso difficile da realizzare. Molte coppie non sono capaci di passare dall'innamoramento iniziale all'amore realistico, che amore è. E allora la coppia ha questa particolare immaturità per il fatto che crede di dover soltanto distribuirsi equamente i compiti, ma non approfondisce il senso profondo del ruolo da un punto di vista psicologico, cioè della funzione che uomo e donna uniti in matrimonio esercitano come tali, come coppie, sulla propria prole. E sono ruoli diversi, per questo che con la moderatrice abbiamo scelto questo titolo, Ruolo del padre. E in cosa può consistere oggi l'immaturità della coppia? Soprattutto si trova un certo falso spontaneismo. Questo è un fenomeno che è molto frequente, è stato individuato già negli anni 70-80 dalla psichiatra, psicoanalista Mara Palazzoli Servini, indagando proprio sulle famiglie. Cosa vuol dire questo? Posso rispondere al tuo amore nella misura in cui lo sento dentro di me. Quando non lo sento più dentro di me, tanti saluti, arrivederci e grazie. Questo è il falso spontaneismo, che significa fare interagire soltanto condotti, guidati dalla voglia, dal fatto che non dobbiamo proporci nulla di particolare che non lo sentiamo dentro come desiderio. Ma al giorno d'oggi troviamo anche un altro importante fenomeno, che è quello dell'individualismo emancipativo. C'è una esagerata tendenza all'autoreferenzialità, cioè è il mio benessere che conta. Nessuno deve costringermi, nessuno deve obbligarmi. Le tue esigenze te le risolvi da te, le mie esigenze me le risolvo da me, come posso, come voglio, in qualche modo, ma io devo star bene. Cioè viene meno quel essere insieme, quel Mitsein, per dirlo con i fenomenologi tedeschi, che è un attributo fondamentale della specie umana, che è il modo specifico di essere dell'uomo che vale nell'amore, nell'amicizia, nella responsabilità e nella interiorità. Quindi l'individualismo emancipativo qualche volta tende a individualizzare troppo la persona, e per cui questa fragilità, questa immaturità che noi troviamo nella coppia sovente danneggia la prole. In che modo? Che la prole non riesce a identificarsi in una coppia genitoriale valida, cioè che crescono e non credono più nella relazione tra uomo e donna, non possono fidarsi di un altro perché vedono che il padre e la madre non si fidano reciprocamente, e allora da qui possono nascere veramente delle patologie. Non sono qui per parlarvi di psichiatria, però disturbi del comportamento alimentare, disturbi narcisistici della personalità in cui il soggetto non è capace di cogliere i bisogni dell'altro, la sofferenza dell'altro, la gioia dell'altro, disturbi borderline che sono al limite tra la salute e la malattia, disturbi antisociali, frustrazione gravissima dell'autorità. Allora, abbiamo detto, il primo punto, una certa fragilità, vulnerabilità, se vogliamo, nella coppia genitoriale. Il secondo punto, c'è un mutamento nelle abitudini, nei rapporti, nel modo di relazionarsi, soprattutto tra i giovani adulti, ma anche tra i ragazzi, ovviamente. Nei ragazzi troviamo un calo, un apprendimento scolastico. Nei ragazzi troviamo ritardi di alfabetizzazione, nei ragazzi troviamo un eccesso di competitività nelle scuole tra maschi e femmine, per cui la donna, una volta diventata adulta, vive nei riguardi del maschio una posizione che oscilla tra una competitività bellicosa con lo stesso e momenti di fusione, direi confusione, erotica. È indubbio nell'ambito scolastico la superiorità della donna, anche perché maturando molto prima da un punto di vista psicologico, eliminando e risolvendo il proprio complesso edipico molto prima dei fratelli, si distacca molto più facilmente dalla madre ed è pertanto molto meglio emancipata. Ma proprio questa difficoltà di rapporto con gli uomini fa sì che, forse questo a Catania non avviene, io non lo so, ovviamente sono stato paracadutato qui a Milano, da Milano, quindi, però c'è un fenomeno molto tipico delle giovani generazioni, le giovani donne, le giovani ragazze, è il turpiloquio. Cioè, si riferiscono, dicono delle parole che si riferiscono a organi che loro non possiedono e a sensazioni che non potranno possedere mai. Cioè, questo fa sì che la donna, per poter essere vicina all'uomo, diciamo tra virgolette per accaparrarselo, usa il suo stesso linguaggio e matura una forma di sessualità che è piuttosto fallocentrica e fallocratica, che è tipica del giovane uomo adolescente, non è tipica della donna. Naturalmente troviamo il fenomeno di bullismo che inizialmente si credeva riservato ai ragazzi maschi e che adesso invece colpisce anche le donne. Ed è questo in misura uguale tra uomini e donne, giovani intendo, è la difficoltà a maturare una psicomotricità propria del sesso al quale appartengono, anche per l'abitudine perversa di far fare ginnastica nelle scuole ragazzi e ragazze insieme. E quindi c'è la difficoltà di maturare nel giovane adolescente, uomo e donna che sia, la giusta identità di genere coerente, cioè con l'identità sessuale. C'è da tenere presente che questo promuove una precocità del rapporto sessuale come prova di forza, come prova di abilità, come prova di efficienza, non come amore. E talvolta succede un evento che probabilmente tutti avrete notato nelle famiglie. Stiamo sempre parlando nel fatto che il rapporto tra uomini e donne giovani sta cambiando, e questo naturalmente conduce poi a una ricaduta, positiva e negativa, non lo so, sul ruolo del padre, ma una ricaduta c'è. Ed è questo. A un certo momento la ragazza si sviluppa e la mamma la porta dal medico, dal dottore, e le dice: caro dottore, sa, oramai sta diventando donna, non vorremmo che succedesse qualcosa, perché se succede qualcosa suo padre l'ammazza. Menzogna enorme, però viene detto così. Non potrebbe darle qualcosina per evitare questa sciagura? E così il medico: ma dov'è il padre? A te padre non interessa come si sta sviluppando tua figlia? Non ti interessa come sta organizzando la propria sessualità in rapporto alla fertilità, alla capacità di amare? Non ti interessa come vive la sua stessa corporeità? Dov'è il padre? Perché deve andare la mamma dal medico? Anche il medico si sente investito di un ruolo, diciamo così, falsamente paterno, ma ben lungi dal prendere in considerazione un aspetto molto importante, che è precisamente capire come si sta sviluppando la sua piccola paziente, piccola o grande, perché molte volte supera in altezza quella della madre, no? Come si sta sviluppando, pensa soltanto a evitare che succeda una certa cosa. Per cui questa ragazza non può più fantasticare, immaginare, giocare, pensare, sognare di essere madre, perché è una disgrazia, è un qualche cosa che deve essere scongiurato mediante un farmaco. Ecco allora la possibilità che la donna, la ragazza, assuma un diverso atteggiamento verso il ragazzo, che cioè lei stessa preferisca assomigliare a, nell'ambito dell'esercizio della propria sessualità, a una forma di esercizio sessuale turbolento, no? E immediato, a cortocircuito. Abbiamo detto, fragilità della coppia genitoriale o quello che sia, abbiamo detto, mutamento nei rapporti tra ragazzi e ragazze, è collegato a questi primi due punti. Troviamo un terzo punto fondamentale, che è una diversa cultura della psicosessualità, molto diversa. Voglio dire questo, che spesso l'istinto sessuale, colpano i medici, qualche volta anche colpano i psichiatri, viene ridotto al mero fatto biologico, cioè il corpo considerato non più come strumento di relazione, il corpo sessuato non come quel corpo che mi porta verso te, che mi permette di vivere una relazionalità felice, ma il corpo come organismo. Allora, gli organi che rappresentano l'istinto sessuale devono funzionare bene, basta. C'è una biologizzazione. Ecco, è stato trovato un'area del cervello che si attiva, si rende particolarmente efficiente allorquando una persona incontra un'altra di sesso diverso. La biologizzazione, la materializzazione, ma diciamo, la cosa può anche essere peggiorata anche ad opera di noi psichiatri, no? Insomma, abbiamo anche qui un professor D'Amico che è psicoanalista, che potrà confermarmi questo, che cioè si dice che l'istinto sessuale è un istinto di comunicazione, quindi bisogna comunicare, è una comunicazione conoscitiva. È un passatempo, è un gioco tra persone che si vogliono bene, è un collaudo per vedere come funzioni, per vedere come funziona, è lo scarico di una tensione, è avere una conferma di come tu vai con me, di come io vado con te. Cioè l'istinto sessuale, con la cultura che promuove al giorno d'oggi quello che dicevamo, un individualismo di tipo emancipativo, viene consegnato all'effimero, al contingente, al transitorio, all'intercambiabile e allo spersonalizzato. Poco importa chi tu sia e quale sia il tuo sesso, importa che tu adesso mi faccia piacere. E questa è la legge, la cultura attuale della psicosessualità. Quindi la transitorietà, l'intercambiabilità del farmaco fa sì che io, stando insieme con te, per non dire andando a letto con te, non mi inserisco più nella tua storia, eppure tu non dimenticherai mai il partner con cui ti sei unito, ti sei unita. Quindi una sessualità fuori dal progetto, fuori dal mio progetto, dal progetto di noi due, fuori dalla responsabilità, fuori dalla sana relazione, fuori dall'etica e dal rispetto, fuori dalla solennità dell'incontro e dell'intimità. Questa ricaduta di questa cultura è forte più nell'uomo che nella donna. Ecco per cui l'istinto, perché la sessualità maschile viaggerebbe più a corto circuito, più a stimolo-risposta. La sessualità femminile non è così, è meglio inserita nel corpo, come noi sappiamo. E, però la cosa importante è che l'istinto sessuale non è per me, è per te. È qualcosa che va verso di te. Non è come gli altri istinti che implica, cioè comporta la consumazione di un oggetto con cui entro in relazione, ma è un arricchimento reciproco. Questo aspetto fenomenologico importantissimo della sessualità va tenuto presente. E la stessa fenomenologia ci conduce ad una considerazione particolarmente importante. Cioè, se facciamo una rassegna fenomenologica della sessualità umana, troviamo che inevitabilmente conduce a unitività e non a divisione, a complementarietà e non competitività o sopraffazione, ma soprattutto è donatività. È donare, non è possesso. La possessività, la gelosia sono tutti aspetti patologici dell'amore tra uomo e donna. È pariteticità e non sopraffazione. È reciprocità e non accaparamento. È totalità, ma non parzialità. È affettività e non fruizione. Non possiamo separare l'istinto sessuale dagli affetti. È personificazione e non intercambiabilità. Tu sei più tu nel modus amoris quando sei con me. Io sono più uomo quando sono con te. Tu sei più donna quando sei con me. La tua persona si presenta a me in virtù della donazione nella sua sostanziale irripetibilità, nella sua sostanziale unicità. Per questo è giusto pensare che tu sei più te quando io nell'amore sono insieme con te. Quindi è intimità soprattutto, e non dissipazione e significazione e non contingenza, non incontro senza senso, spontaneo, perché mi dà, perché ne ho voglia, è progettualità, è procreazione. Ecco perché la coppia, non solo, e qui il ruolo del padre è importantissimo, non solo è, diciamo, genera dei figli, ma soprattutto genera con i figli e tra di loro genera una cultura, cioè un modo di interpretare la vita, un modo di trasmetterla mediante i valori come tradizione. Allora ecco l'importanza dell'uomo ad essere come tale accanto alla moglie nei riguardi della prole. Importante sotto questo aspetto la giusta identificazione nel proprio ruolo sessuale, tanto uomo come donna. Allora, abbiamo visto questi tre punti, che la trasformazione del ruolo del padre può essere imputabile, uno, alla fragilità della coppia odierna, due, al mutamento delle relazioni tra uomo e donna giovani, tre, al cambiamento di una cultura della sessualità. Allora, abbiamo anche visto, tanto per riassumere i punti più importanti, che le conseguenze si ripercuotono in una sfiducia della prole nella relazione uomo-donna, soprattutto nell'ambito della coniugalità. Una difficoltà da parte della prole a identificarsi nel ruolo, nella loro giusta identità di genere, e quindi una incertezza nel proprio ruolo. Sono uomo, saper essere donna, saper essere uomo. C'è soprattutto nel padre, al giorno d'oggi, una particolare insicurezza nel proprio ruolo di dire. La latitanza o assenza del padre non favorisce nell'ambito della famiglia una corretta identificazione nel ruolo e quindi una maturità. A questo punto diciamo che sono i rischi, non è vero che poi la coppia risulti tanto danneggiata, perché la plasticità adattiva dell'essere umano, come abbiamo sentito dalla nostra relatrice prima, la nostra moderatrice prima, può portare a una plasticità, una capacità di adattamento, reperire nuove forme di essere insieme con un altro. Quindi non è detto che il mio discorso si dirige verso una pessimistica visione del ruolo del padre completamente assente, eliminato dal contesto della famiglia. Però certamente un punto è importante, ed è quello che noi avevamo prima identificato nella difficoltà di relazione tra uomo e donna. Mi fermo un momento, qui ci sono tre posti liberi, io non ho cattivo odore, si può venire qui, no, perché mi spiace vedere delle... Ecco. Allora, no, grazie, per adesso sto bene, comunque lei prepari. Okay. Allora, c'è oggi il rischio nella famiglia, ad opera del ruolo ad opera del padre, di ignorare, e il pericolo è anche nel sistema scolastico, grazie, del sistema scolastico, è di non rispettare il ruolo naturale dell'identità di genere, un'identità di genere coerente con l'identità sessuale. E in parte anche perché, come tutti voi sapete, si tende oggi a parlare dell'identità di genere come una libera opzione che l'essere umano può fare una volta raggiunta l'età della ragione. Ecco. E in realtà, se si trova in questa situazione di incertezza da dover scegliere un'identità di genere, evidentemente qualcosa non ha funzionato nella famiglia. Ma nella famiglia possiamo escludere che la madre sia assente, qualche caso di malattia, e il padre che solitamente non è presente come uomo nel sistema familiare. E allora c'è il rischio di non orientare i ruoli dei propri figli, cioè uomo e donna. Noi sappiamo che la donna ha uno sviluppo molto più simmetrico rispetto all'uomo. L'uomo, il ragazzo, si sviluppa in modo asimmetrico, soprattutto durante la pubertà. La donna ha uno sviluppo molto più armonioso, l'uomo è molto più disarmonico, per cui alterna una maturità fisica con un'assoluta immaturità, per esempio da un punto di vista intellettuale, oppure alterna delle capacità, diciamo, logico-matematiche assolutamente superlative con una totale imbranataggine da un punto di vista di fare qualsiasi esercizio di ginnastica con gli altri compagni. È molto più asimmetrico l'uomo. La donna ha una psicomotricità molto più serena. L'uomo ha una psicomotricità molto più caotica, per cui ha bisogno di tempi di scarico di questa psicomotricità maggiori rispetto alla ragazza. No? Tutti i docenti si lamentano che le ragazze sono molto più attente, molto più diligenti, no? Rispetto ai loro compagni maschi. E la donna presenta una maggiore stabilità negli interessi, l'uomo cambia gli interessi. La donna sa dedicarsi meglio a una persona, fino a tardissima età si dedica a una persona. L'uomo si dedica facilmente anche a un'idea, a un ideale. La donna giunge a dedicarsi a un ideale sempre passando attraverso una persona. La donna, grazie alla liquidazione più rapida del complesso edipico, è molto più autonoma. Cioè, rispetto ai fratelli maschi, si emancipa prima e rispetto ai fratelli maschi è molto più attrezzata da un punto di vista dell'autonomia. Tant'è vero che è molto più in grado di gestire se stessa molto bene, no? In ambito poi sociale, lavorativo, anche in tarda età, sa costruire attorno a sé, in virtù dell'istinto del nido, un ambiente decoroso, ciò che l'uomo non è in grado di fare. Questa maggiore autonomia psicologica, potremmo meglio dire psicosomatica, fa sì che la donna viva molto più a lungo rispetto all'uomo, no? Troviamo un esercito di vedove immortali nelle nostre società, no? Mentre invece noi uomini defungiamo molto prima, no? L'istinto del nido, l'istinto del cibo, la capacità dell'altro di entrare in rapporto all'altro in modo molto più facilmente empatico, no? Noi uomini molte volte non comprendiamo niente, no? Diciamo, come non capisci? La donna in compenso ha un'organizzazione visuo-spaziale meno ben integrata dell'uomo, per cui c'è il rischio che facendo per il posteggio marcia indietro con la macchina abbia qualche difficoltà in più rispetto all'uomo. La memoria, la donna ha una grande memoria emotiva, dicono i neurofisiologi che sia dovuta a una maggiore rappresentazione di una struttura centroencefalica chiamata amigdala. Sarà vero, può darsi. Certo è che la donna è capace, a distanza di 30 anni, a ricordare con passione e con rabbia certi eventi avvenuti tanto tempo prima, dei quali il marito, per esempio, non ricorda più, e si stupisce che ancora dopo 30 anni tu non mi hai difeso con la cognata. È come possibile, però è possibile, insomma. Ecco. Allora, e sono degli aspetti importanti questi, perché non si può dimenticare che la donna ha questo istinto del cibo, del nido. Quando nel 1975 la giornalista Bellotti diceva: donne, svegliatevi, è ora di finirla con questi giochi femminili, voi così venite asservite a una società maschilista e prepotente, anche dei giochi dovete essere pari agli uomini, insomma, non è proprio questo, insomma, il discorso da fare, invece vanno valutate l'istinto del nido, l'istinto del cibo, ma soprattutto l'istinto materno, che ovviamente, come abbiamo detto, non può essere profanato, come dicevamo prima, con una pillola, insomma. Ecco, allora, che è importante sapere che c'è un periodo della vita, il primo, quello della dell'infanzia, un secondo, quello dello sviluppo, in cui la prole ha molto bisogno di confrontarsi con padre e madre, molto bisogno, soprattutto quando la prole, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, cercano dei modelli, cercano delle figure guida, cercano una visione della vita che poi magari contrasteranno, perché sentono il bisogno di assumere una posizione originale di fronte alla vita. Ma è un'epoca in cui hanno bisogno di consenso, hanno bisogno di conferme, hanno bisogno di sapere chi sono. E l'istinto sessuale, prima di essere un'eccitazione degli organi predisposti, è un istinto di ricerca, di esplorazione, di affermazione, di conquista, di stima, di elaborazione plastica della realtà, di curiosità, ma anche di ribellione e di distruttività, come noi sappiamo. Questo può portare nella prole dei sentimenti di inferiorità, che vengono più facilmente superati dalle ragazze, non sempre. Ma soprattutto l'inferiorità la troviamo nei ragazzi di sesso maschile. Ecco perché al giorno d'oggi ribadisco l'importanza della figura del padre. Perché in famiglia è indiscutibile che le cose restino in mano della madre, cioè che debba, il padre non può allattare, no? Insomma, ci sono alcuni tentativi di metamorfosi del ruolo del padre, insegnando al padre a cambiare i pannolini e a dare il biberon, ma non è questo il ruolo del padre. Confondiamo i ruoli con i compiti. Chi guida in casa è la madre, deve essere così, la madre gestisce. Però se la madre non sta attenta al ruolo del consorte, produce un fenomeno, poi ve lo spiega il professor Enrico D'Amico, che si chiama la forclusione del padre, cioè impedisce che la prole e maturi il simbolo della figura paterna, e quindi è come se il padre fosse una specie di ape maschio, di fuco che può anche essere eliminato dopo che ha fecondato la regina. Ecco, allora è importante che è la madre che valorizza o svaluta la figura del padre, però la madre ha un fortissimo potere contrattuale. Andiamo a scuola. Maestre, professoresse, pochi professori, c'è qualche professore, vero, ma in realtà la prevalenza è del sesso femminile. Le prime della classe sono tutte ragazze, le rappresentanti della classe sono tutte ragazze, e coi sentimenti di inferiorità che può provare un ragazzo maschio nell'epoca dello sviluppo, se non sa rispecchiarsi in una figura virile valida come quella di suo padre. Altrimenti cosa succede? Un ragazzo cerca dei compensi. La scuola lo porta di fronte alla propria inferiorità e a dei confronti spesso indebiti verso le ragazze che sono troppo brave. In casa molte volte riceve l'infelice messaggio: sei un disordinato, sei incapace di fare un po' di pulizia nella tua camera, vedi Maria Grazia come brava, come pulita, come tiene in ordine la sua stanza. Cioè il modello è un modello femminile che ti viene proposto, che è contrario alla sua possibilità, insomma. Allora il ragazzo cerca dei compensi. I compensi sono appunto in campo extrascolastico, non in campo scolastico. Per cui si può avere un compenso nello sport, quando va bene, un buon compenso, ma sovente nei giochi di internet. I maschi sono immensamente più bravi delle ragazze a lavorare e operare in internet, in tutti i modi, insomma. Sono più bravi degli adulti, e questo porta a trovare loro una notevole conferma e consenso sulle loro capacità, al punto che in Giappone hanno individuato addirittura la sindrome di Hikikomori: il ragazzo maschio non esce neanche dalla sua stanza e sta lì tutto il giorno, studia in internet, fa tutte le sue cose lì. Oppure ci può essere un compenso nel bullismo. Ti faccio vedere io che sono superiore a te. Ed ecco, in età precocissima, il bullismo e la violenza, ovviamente anche sessuale, sulle ragazze. Ci può essere un altro compenso, nella cosiddetta opzione omosessuale, in cui il ragazzo non tollera l'eccesso di potere contrattuale che ha la donna, la sua maggiore maturità, eccetera. Tutto questo è dovuto a due fattori. Parlo del maschio, perché stiamo parlando poi della figura del padre. Primo, come abbiamo già detto, la mancanza di una figura di riferimento maschile in casa, cioè non può rispecchiarsi in suo padre. La seconda, e al giorno d'oggi non c'è la possibilità che l'uomo, il ragazzo intendo, faccia un percorso di iniziazione. Una volta c'era questa possibilità offerta bene o male dal servizio militare, in cui il giovane soggetto di sesso maschile finiva per rinforzarsi, per avere un maggior numero di conferme e di consensi sulla propria identità virile. Oggi questo non c'è, ma l'identificazione in un valido modello virile sta soprattutto in rapporto alla donna. Ecco perché tutto questo ci porta al ruolo del marito e al ruolo del padre. Allora, veniamo invece, fatta questa escursione, più specificatamente nel ruolo del padre. Sono tre momenti in cui il padre interviene nello sviluppo della prole: l'infanzia, l'adolescenza e il giovane adulto. Che ci fa il padre nell'infanzia? Fa tutto la mamma. E non è così. Il padre deve fare un ruolo di particolare sostegno alla consorte, non sostituirsi alla consorte nel lavare, pulire il bambino, dare il biberon e tutta una serie di cose. No, è la madre che va sostenuta in questo compito, è la madre che va valorizzata, ma da chi? Dal marito, ovviamente, no, insomma. E alla quale va fatta sentire tutta la solidarietà, tutta la gratitudine, tutta la gioia. La donna è capace di un'immensa quantità di lavoro che noi uomini non siamo capaci di fare, ovviamente, insomma. Ma deve essere sostenuta in tutto questo, altrimenti il figlio diventa tossicodipendente, insomma, perché la madre, non avendo come gestire la propria ansia, non avendo un consorte che l'aiuta in questo, non tollera l'ansia e allora la proietta sul bambino e dà roba da mangiare al bambino per farlo stare buono. E così, se il bambino sta buono, anche lei non ha ansia. ma padre lo è. Il padre ha un ruolo invece importante nel distacco dalla diade simbiotica madre-figlio. È una diade simbiotica. Portare, iniziare una locomozione del bambino, vai da papà, e poi torni dalla mamma, significa già collocare il padre in uno spazio psicologico esterno alla diade madre-figlio. E quindi il padre è mediatore con una realtà esterna e sociale. Ma pensiamo soltanto ai gesti paterni. Il gesto paterno tipico qual è? Prendere il bambino e buttarlo in alto e metterselo sulle spalle. La madre non fa questo gioco, fa altri tipi di giochi. La prima cosa che fa un padre, ma anche uno zio, anche un nonno, appena vede il bambino, lo prende e lo mette in alto. Non è della donna fare questo movimento, questo gioco con il bambino. Ed è proprio il distacco dalla terra, il portare dalla madre terra, il portare il figlio verso una visione superiore delle cose. È già un ruolo culturale, se volete, permettere un panorama più vasto. C'è tutto in questo gesto così semplice del padre, ma il padre deve avere un rapporto fisico con il figlio, che non è quello di cullarlo vicino al suo seno, no? È in un altro modo, ecco. E la locomozione è molto importante. L'uscire con papà è totalmente diverso che uscire con la mamma, anche perché è più difficile, ma quando i bambini possono uscire con papà è una grande gioia, è sempre portarli verso il fuori. Il padre, come abbiamo visto, deve essere presente, deve essere vicino alla consorte, e pertanto è importante che il padre sappia farsi carico delle emozioni della moglie e non spaventarsene o addirittura rifiutarle. Questo contenitore di emozioni è particolarmente importante verso la prole. Il bambino che dice ho paura del buio, e gli si risponde ma tu non devi aver paura del buio. No, bisogna ragionare con lui cosa vuol dire avere paura del buio. Che cosa ti fa paura del buio? Pensi che qualcuno ti voglia far male? Noi sappiamo che sono le fantasie aggressive interne del bambino che vengono proiettate sul buio, però è importante che il ruolo del padre, che è quello di formare l'io dei figli nel senso della razionalizzazione e della relazionalità, no? Mentre la madre forma la parte più emotiva, istintiva del figlio. Allora, sotto questo profilo, il padre deve giocare con i figli. È diverso giocare con la mamma e giocare con papà, eh? Molto diverso. Sono entrambi importanti i giochi, ma giocare con papà permette al padre di comprendere i suoi figli, comprendere come si organizza il loro mondo istintivo, sapere da che parte vanno, sapere di chi hanno paura, sapere come vogliono essere, sapere qual è il primo rudimentale progetto di vita, sapere quali sono i modelli nei quali loro vogliono identificarsi, essere attenti, insomma, ai primi embrionali progetti che il bambino fa. E in questo modo il padre, giocando a sua volta dei ruoli, perché per esempio giocare con papà, mettendosi a cavallo sulle spalle del papà, è una cosa meravigliosa per un bambino. Non è lo stesso mettersi a cavalcioni della mamma, è tutta un'altra cosa. Il gioco del papà, soprattutto quando è un gioco di funzione, di finzione, un gioco di ruoli, è importantissimo. E allora, in questo modo, il padre impara a conoscere meglio i propri figli, ma anche attraverso la generazione dei figli, attraverso la consapevolezza che la presenza di queste creature dà alla figura paterna, il padre riorganizza e matura la sua stessa sessualità, che viene privata degli elementi fusionali, violenti, scissi o anche perversi. Perché la generazione è qualcosa che è partita da lui insieme con sua moglie. Questo è importante nella fase in cui i bambini sono piccoli. C'è un secondo punto, che è quello della pubertà, che al giorno d'oggi l'adolescenza, come noi sappiamo, dura da molto tempo. Abbiamo un esercito di amici che deve passare. Ecco, benvenuti. Ecco. Ciao. Una squadra bellissima. Stupendo, estremamente gioioso e confortante per la città di Catania. Quindi c'è una seconda epoca, no? Ed è il momento in cui il ragazzo e la ragazza si sviluppano. Ed è importante in quest'epoca ipotizzare una maturità che ancora non c'è. E questo lo può fare il padre, perché la madre tende a rimanere emotivamente vicina ai propri figli. Capisce subito quando una cosa non va al figlio. Ovviamente il padre non la capisce, o la intuisce, o gli deve essere detta dalla consorte. Allora va ipotizzata una maturità che ancora non c'è nel bambino. Dargli anche delle responsabilità. Mi incontrai una volta in treno con un signore che veniva come me da Milano per andare a Napoli. Il treno fece notevoli ritardi e questo signore mi parlò di suo padre. Suo padre era un fuochista, era uno che andava a rifornire di carbone le caldaie dei termosifoni dei signori della Milano, che aveva la possibilità di avere un impianto di riscaldamento di questo tipo. E mi disse: per me il regalo più grande era poter alzarmi alle 4 del mattino e andare con papà a rifornire le caldaie dei signori. La mamma si arrabbiava perché mi sporcavo tutto come papà, però per me erano i momenti più belli. Mi sentivo di assomigliargli, non ci dicevamo niente, però eravamo insieme. E questo senza neanche una parola, viveva un rapporto positivo, costruttivo, plastico con il proprio padre. E quindi era già un modello di chi andava fuori. E allora ecco che nel momento dell'adolescenza il padre deve sapere appoggiare i processi emancipativi. La cosa importante, perché a quest'epoca la madre parla ai propri figli e ci parla anche piuttosto bene, perché il ragazzo maschio non sempre ha piacere di parlare col papà, parla meglio con la mamma. E infatti la ragazza che parla col papà si sviluppa prima, è inevitabile, è legge di natura questa. Però è importante saper parlare con e non più parlare a. Io non parlo più a Filiberto e gli faccio un discorso, devo parlare con Filiberto. Nell'epoca dello sviluppo, ma parlo fino ai 16-18 anni, ecco, insomma, è importante sentire quale cultura va maturando il figlio, rispettivamente la figlia. E bisogna stare particolarmente vicini alla moglie nel momento del distacco. Ma il padre serve alla prole nella misura in cui sa relazionarsi bene alla propria consorte, perché così offre alla prole un modello di una valida solidarietà. A quest'epoca spetta al padre un ruolo importante di istruire la prole, ma anche la propria consorte, che non si tratta solo di voler bene, ma si tratta di volere il bene. il che significa saper affrontare momenti difficili. E se non c'è il padre, questi momenti difficili non si affrontano. Uno psichiatra francese, Maurice Borot, 30 anni fa o 40 anni fa, ha fatto uno studio sulle famiglie e ha visto che le famiglie in cui la prole si emancipava meglio, erano capaci di risolvere i problemi, sapevano avere la giusta autonomia rispetto alla famiglia, erano le famiglie dei marinai. Ma come, se il padre è via sempre, che succede? Sì, il padre è vero che è via sempre, però noi tutti si aspetta il suo ritorno. E quando ritorna, porta gioia, porta amore, porta unità, porta esperienza, porta la motivazione fondamentale della sua vita che ha girato il mondo per la famiglia, porta oggetti che rappresentano il suo percorrere per vari porti, porta tutte queste cose il padre. Non è che deve stare sempre a casa, ma è che tutta la famiglia si è organizzata in funzione dell'attesa del padre. Così la prole capisce che deve autonomizzarsi, che deve fare la vita propria abbastanza presto, che non riceve dalla famiglia, dalla madre soprattutto quando è scontenta del marito, che quando il figlio maschio incomincia ad avere i primi tentativi di emancipazione, di autonomizzazione, come farò senza di te? No? Stare attenti a questa modalità, insomma. Ecco allora che il generare i figli alla società è importante perché i ragazzi e le ragazze sappiano risolvere i problemi, sappiano costruire relazioni felici, sappiano assumersi delle responsabilità, abbiano il sufficiente senso di iniziativa e sappiano sbagliare e correggere gli errori, sappiano avere fiducia in sé, sappiano superare le frustrazioni, sappiano formarsi una cultura, una loro visione della vita dopo aver ricevuto e criticato e superato magari i valori che in famiglia gli sono stati trasmessi. È molto importante tutto questo. Allora ecco che il padre in questa fase non può essere assente, perché ovviamente vengono elaborati tantissimi di quei contenuti e bisogna che padre e madre insieme si coalizzino per operare bene in senso educativo, pedagogico verso la prole. Bisogna tener conto che il padre qualche volta può essere effettivamente assente. Magari viene a casa a mangiare tutti i giorni e alla sera sta sempre a casa e si addormenta davanti alla televisione. Può essere benissimo un uomo pantofolaio che lascia fare la moglie, tanto è così brava, così efficiente, oppure il padre è impegnatissimo, il padre è sempre stanco che appena arriva dice lasciatemi in pace, il padre è insicuro, il padre è monotono che dice sempre le stesse cose, oppure anche il padre è geloso dei propri figli, perché no, insomma, o delle proprie figlie. Qualche volta il padre vede il figlio maschio come un rivale, come un intruso, oppure lo vive come una propaggine di sé, proietta sul figlio il proprio mondo di quando lui era adolescente. Sono i padri che continuamente dicono ai figli: io ho la tua età, facevo già, io ho la tua età, ero già, no? E non è questo, ovviamente. Allora ecco che un padre così non è in grado di gestire bene l'autorità. Autorità viene da auctor. E chi se non tu padre e tu madre siete autori, avete dato la vita al vostro figlio, insomma. Quindi autorità vuol dire augere, cioè far crescere. Allora l'autorità deve essere normativa e il dare le norme spetta a entrambi i genitori, con una specie di prevalenza del ruolo del padre da questo punto di vista. Cioè è più legge deve essere più legge quello che dice il padre, poi dopo rinforzata dall'intervento della madre. È istruttiva. Che istruzioni do ai miei figli? La gioia maggiore per i bambini è poter andare a riparare un rubinetto col papà, e poter fare una cosa in famiglia, di tipo bricolage, con il papà. È educativa, che è molto importante, è correttiva. Al giorno d'oggi molte volte i genitori hanno paura di correggere, perché deviati da alcuni psicologi di cattivo stampo non vogliono dare dei traumi ai figli, ma non danno dei traumi. L'importante è saper correggere con la dovuta forza, certamente, è un grave errore quello della madre che di fronte a una malefatta del figlio o della figlia dice: lo dirò a papà. Intanto passano i tempi, le ore, il bambino o la bambina ha già dimenticato la propria malefatta, arriva il padre e la moglie dice: puniscilo, e il padre è costretto a fare una punizione a freddo, che non certamente va bene, insomma, ecco. Quindi è correttiva, sì, importante saperlo fare, è promotiva, bisogna promuovere. Quali interessi hanno i miei figli, quali attitudini, quali motivazioni a vivere, come posso sviluppare meglio la personalità intrinsecamente contenuta in modo embrionale in loro. Ma l'autorità deve essere esemplare e collegiale. Non posso dire ai miei figli: ragazzi, ringraziate la zia che ha portato i cioccolatini, che poi sono i cioccolatini avanzati del Natale, tutti bianchi, no? Si sa che vengono riciclati, no? Insomma, quando io non ringrazio mia moglie quando mi fa un buon piatto, quando mi fa un piccolo favore, e viceversa, quindi deve essere esemplare, deve essere collegiale. Deve essere collegiale, la collegialità della coppia è fondamentale, no? E cioè bisogna parlare insieme. Ecco il ruolo del padre, ecco quello che dicevamo all'inizio, consigli di amministrazione. Ed è un modo per amarsi, è un modo per vivere l'amore realistico, è un modo per essere veramente disponibili l'uno al pensiero dell'altro, è un modo per far sentire l'altro importante, la persona più importante nella mia vita, che è la moglie rispettivamente il marito. Altrimenti ci sono delle deviazioni dall'autorità, l'autorità sempre divisa: bambini andate a letto, no, fagli restare ancora un po'. L'autorità competitiva, non ditelo a papà, ma tu tanto tu non capisci mai niente, no? È possibile che tu mi dia sempre contro di fronte ai figli. Grave errore questo di un'autorità che polemizza, è ostile di fronte ai figli. Quanti casi non mi capitano, no, di persone che ricordano con lacrime le discussioni feroci dei genitori. C'è un segno che i ragazzini si stanno stufando, cerco di essere rapido, di concludere, perché vogliono, pretendono giustamente che i genitori. Allora, l'autorità sostitutiva, ti dico io come devi essere, come deve pensare, per il tuo bene, no? Al tuo posto. L'autorità intrusiva, si può sapere chi è quel Giorgio che ti ha telefonato l'altra volta? L'autorità addirittura che si è, un giorno è venuta una signora preoccupatissima con un quaderno in mano, un quaderno bellissimo, tutto ornato, dice: questo è il diario di mia figlia, guardi che lei deve curarlo, una ragazza di 12 anni, 13 anni, perché questa rischia di diventare una perversa. In effetti il diario era una collezione di situazioni che noi al giorno d'oggi potremmo anche definire pornografiche. E detto: no signora, guardi che la ragazza sta organizzando il suo istinto sessuale. Scrivendo queste cose le oggettiva, le mette davanti a sé, se ne libera, stia tranquilla, la lasci scrivere, perché in questo modo si fa, ma lei crede che ha fatto questo un professore di matematica? No, assolutamente. E quest'epoca, nell'epoca dell'adolescenza, è la fantasia che prevale sulla realtà. E ci sappiamo benissimo che ci sono dei traumi psicologici modulati soltanto dalla fantasia. Ecco. E allora, e poi dopo disse, beh, insomma, si rasserenò, però guardi che qui c'è una cosa grave. E qual è? Dice, è che lei è andata a vedere il diario di sua figlia. Rispetti l'intimità, rispettare l'intimità, perché un modo per rispettare è farli crescere bene, insomma. L'autorità possessiva, no? Sei la mia unica consolazione, sarai il bastone della mia vecchiaia. E chi si emancipa più? L'autorità protettiva. Figlio giocatore di baseball americano, 1,90, studente di ingegneria, con qualche difficoltà di studio. Appena si metteva al tavolino per studiare, dopo 10 minuti arrivava la madre con una spremuta d'arancia e una bananetta per tirarlo su. Così interrompeva lo studio del figlio e gli dava il messaggio che senza di me tu non puoi studiare. Quindi è importante che a questo punto c'era un padre che doveva dire no, tu per favore non lasci stare, se ha bisogno verrà a chiedere lui, ha 23 anni quindi. L'autorità collusiva, cioè di illudersi insieme, no tu non andare a scuola ti giustifico io, l'autorità sempre scontenta. Diventerai come la zia Gisella. Io mi aspettavo ben altro da te, credevo di trovarmi di fronte a un uomo, invece sei ancora un bamboccione. L'autorità scontenta non fa così, no? Se c'è qualcosa che non va non le dici sei stupido, sei immaturo, cerca di essere più maturo. No, io come autorità devo metterti in grado di maturare, di essere responsabile, e ne parlo con mio marito, con mia moglie, per vedere come riusciamo a migliorare, a far maturare, in quali condizioni possiamo mettere nostro figlio, i nostri figli, ecco, perché possano migliorare sotto questi aspetti. L'autorità può anche essere oppressiva, perché non sopporta la propria ansia di vedere che qualcosa non va. È come se dovesse sempre vigilare, proteggere, e allora diventa di una pressione tremenda. Non bere troppa acqua, sai che diluisce i succhi gastrici. Usa bene il tovagliolo, non lasciare i capelli nel lavandino, pulisci bene la bocca, lucci delle scarpe, aggiustati la cravatta, eccetera, eccetera, eccetera. Attenzione, possono essere... Allora, come vedete, stiamo passando dalla figura del padre, che deve modulare, perché tutta questa oppressione, tutta questa possessività diventa dal fatto che la coppia non funziona, cioè che il marito non è vicino alla moglie e che la moglie molte volte si sente sola. Allora, è importante tener conto di questo e così poi concludiamo, no? Che il ruolo del padre passa necessariamente attraverso la bonifica della coppia genitoriale, cioè marito e moglie, papà e mamma sono in primo luogo coniugi e i figli vengono dopo. Il tempo dedicato ai figli sarà forse maggiore, ma nel gioco degli affetti i figli vengono dopo. Troppe madri scontenti del proprio marito si risarciscono con i figli vengono dopo. Allora l'amore dei coniugi implica aspetti pratici, realistici, generativi, sessuali, implica amore, rispetto. E molte volte i coniugi dopo alcuni anni di convivenza danno tutto per scontato, so già cosa mi risponderà, so già che la pensa in questo modo, e non parlano più. Grave errore. Ma nella coppia marito e moglie, se deve funzionare bene, deve rimanere qualcosa dell'amore degli amanti, che è escludente ed esclude anche i figli. Piccoli segreti, complicità sane e sante, giochi, intimità. Come fidanzati. Amanti, come fidanzati. Questa è, vi cito, non uno psicologo, ma è un santo beatificato recentemente dalla Chiesa, che è San José María Escrivá, diceva: a 80 anni dovete essere ancora più fidanzati, no? E io ricordo una volta che ho telefonato ai genitori di un mio collega, 83 anni lui, 84 lei, mi risponde la mamma, e mentre io dicevo, chiedevo come sta, sento che la signora cambia tono di voce, dice: ma che succede signora? Guardi, lasci stare quel porco di mio marito che viene a vedermi le gambe. Molto bene, molto bene. Questo è importante. Quindi amanti, ma anche amici. Cosa vuol dire conservare l'amore di amicizia? Parlare a cuore aperto, non avere segreti. Dire fino in fondo il proprio pensiero, sapendo che l'altro lo accoglie. Dialogare su temi culturali, cioè aprirsi alla vita. E questo i figli fanno un grande apporto, perché quando incominciano a portare la loro visione della vita, sai, il professore di matematica mi ha detto questo, la professoressa di filosofia, portano molte cose, e implica riscoprire, riformulare tutto il sistema culturale della famiglia. Amici, che significa anche aperti ad altre amicizie, no? Altre famiglie, ai figli, temi culturali, no? È molto importante. Temi spirituali, molte volte si scoprono che dei coniugi non si manifestano i loro bisogni spirituali. È finito? Devo andare? No. Genitori, quindi abbiamo detto coniugi, amanti, amici, e anche genitori, perché ci sono delle epoche nella vita in cui un uomo ha bisogno di mettersi in rapporto con sua moglie come un figlio si mette in rapporto con la madre. Ha bisogno di piangere sul seno di sua moglie, ha bisogno di essere completamente accolto. Così come ci sono dei momenti nella vita di una coppia in cui la donna ha bisogno di riposare sulle braccia forti di suo padre, che sono quelle di suo marito. Ma poi anche soci, alleati, saper combattere l'uno al fianco dell'altro, saper sostenerlo, saperlo stimare, saper stare dalla sua parte, saper rispettare i patti, lealtà, chiarezza, collegialità, tutto questo è molto importante. E allora abbiamo capito da questo che tutto ciò è possibile. Cosa ho detto? Vedo che... allora... è possibile se c'è una buona comunicazione, e al padre spetta di elevare il tono della comunicazione, perché necessariamente la madre non ha questo compito, perché sintonizza, empatizza con i propri figli, per cui tende a mantenere il loro linguaggio, e guai se non fosse così, perché altrimenti i figli non si sentirebbero capiti. Ma al padre spetta comunicare bene ed elevare il linguaggio, dire fino in fondo il proprio pensiero, chiedere scusa, ringraziare, chiedere per piacere, tutto questo è un dono incredibile che si fa ai figli. Riparare, cioè saper recuperare, sapere aggiustare certe situazioni, saper bonificare, saper chiarire. Elevare il linguaggio vuol dire impedire certe immaturità che il linguaggio molte volte familiare ha, no? Per esempio i famosi messaggi a doppio legame: ti do questi soldi ma non spenderli, vai pure, ti ho sempre lasciato libero, e così dicendo piange, no? È un messaggio a doppio legame che è sconcertante per i figli, ma anche lascia il consorte o la consorte in una situazione di perplessità. Il ricatto: mi verrà un infarto se stai così, no? Finirò male, no? E allora qui non c'è nessuna consolazione nella mia famiglia, non ho mai trovato un aiuto in nessuno mi capisce. I giudizi generalizzati, cioè portati da uno stato d'animo emotivo. Il giudizio più tipico che noi troviamo, è più frequente nella moglie che nell'uomo, ma è: sei sempre il solito. Ma come deve essere? No, insomma, sei sempre il solito. Cioè, non mi capirai mai. Evidentemente questo presso i figli dà un'idea di non ti sopporto come sei. Le frasi in decremento affettivo, ci si dimentica di essere amante, ci si dimentica di dire ti voglio bene, e questo per i figli è medicinale, è educativo al massimo, e spetta all'uomo prendere l'iniziativa. E il decremento affettivo, telefonata, come stai? Risposta, sto qui. Domanda, ti ho chiesto come stai? Risposta, come vuoi che stia? E a questo punto vabbè ti saluto. Il proseguire sempre la polemica, cioè lo scaricare sul proprio consorte del malumore, e non mi porti mai i fiori. E allora lui si presenta in casa con un bel mazzo di fiori, e già perché te l'ho detto io, e allora i fiori vanno in testa ovviamente da un'altra parte, no? La polemica non esprimere mai fino in fondo il proprio pensiero, elevare la comunicazione, eh? E, esempio, non mi sta più bene questo vestito, moglie. Stai fresca se speri che te ne compri un altro. Comunicazione sbagliatissima, no? Per questo bisogna ragionare su come noi parliamo, perché la comunicazione corretta, si tratta di una coppia di 60 anni, quindi, e la comunicazione corretta è caro, virgola. Scusami. Capisco che per te, che sei risparmiatore per non dire ticchio, no, insomma, quello che ti chiedo ti potrà meravigliare. Sei stato un buon amministratore, hai sempre lavorato in banca, però guarda che io mi trovo a disagio con questi vestiti che sono dell'anno 2001. No? Allora, ti sarei riconoscente, ecco gli affetti, se tu me lo comperassi. Io vi assicuro che quest'uomo non manda sua moglie in giro come Lady Godiva perché le ha fatto così, ma sarà ben contento di dire ma sì, va per questa volta, eh? E bisogna esprimere fino in fondo il proprio pensiero mettendo, ecco, dell'affetto dentro le cose, percepire il cambiamento, ascoltare i figli, elevare il linguaggio, esercitare un distacco personificante sulla prole, trasformare nel senso di immaturità, della maturità, le relazioni che ancora si vede immatura, orientare nei ruoli, far fare i lavori da uomo al ragazzo, lavori da donna alla ragazza, che siano contenti di essere uomo e donna, promuovere interessi a seconda delle predisposizioni che si presentano, sostegno affettivo alla consorte, sono tutti questi ruoli importanti che un padre deve fare, ma soprattutto deve portare, incentivare, incrementare, fate quello che volete, insomma, ecco, affetti di benevolenza e di compiacenza, che sono gli stessi affetti con cui Dio guarda la creatura umana. La benevolenza e la compiacenza per i figli, la benevolenza e la compiacenza per la propria consorte, amando anche ovviamente il proprio consorte, quelli che possono essere i suoi difetti, no? Insomma, c'era una coppia che litigava sempre perché il marito non voleva avere ospiti, la moglie invece era una donna che amava le relazioni sociali, amava avere molti ospiti in casa, amava offrire loro degli ottimi drink, e il marito invece non ne voleva sapere. Litigi continui. Allora, poi la cosa fu risolta con una semplice parola. Siccome il marito in queste riunioni era sempre in parte arrabbiato, veniva dalla moglie, presentata agli ospiti, vi presento il mio orso, no? E da quel momento lui ha saputo che nessuno lo rimproverava, che era l'orso, e poi poco a poco si è abituato anche lui ad avere delle migliori relazioni sociali. Quindi bisogna promuovere molto la gioia nella famiglia, questo compete contemporaneamente a marito e moglie, ma certamente il padre deve fare un ruolo su questo punto di vista, perché tornando a casa molte volte trova un clima di poca gioia, insomma. Allora, il buon umore è importante, incentivando affetti di stima, di interesse, di solidarietà, di gratitudine, di riflessione, di preghiera. Allora, abbiamo parlato della funzione di distacco che ha il padre della prole rispetto al sistema della madre e rispetto al sistema della famiglia. Abbiamo visto il ruolo del padre nel promuovere i processi di emancipazione. Abbiamo visto il ruolo del padre importantissimo nel sostenere la moglie nell'esercizio dell'autorità e nei momenti più difficili del distacco. Abbiamo visto il ruolo del padre come punto di riferimento culturale di promozione della cultura nella famiglia, che significa un sistema di leggere la realtà nella quale si vive, che significa un sistema importantissimo per produrre e perpetuare una tradizione che è quella della nostra famiglia. Abbiamo visto il ruolo del padre nell'importanza che ha per elevare il linguaggio e la comunicazione nella propria famiglia. Vi ringrazio. Applauso per il professor Poterzio, per chi non aveva avuto modo magari di ascoltarlo e di conoscerlo. Penso proprio che le aspettative siano state, non siano state disattese. Una relazione molto interessante, appunto, come avevamo preannunciato. Come al solito, anche facile per me lo è stato anche questa volta il fatto di rispecchiarci in alcuni passaggi. Tra l'altro il professore riesce anche a farci sorridere riflettendo su quelle appunto che sono tematiche che ci riguardano e come dicevo all'inizio, nella introduzione iniziale, questi tempi moderni in cui viviamo ci inducono, comunque ci portano a questi inevitabili momenti di confronto e raffronto per la difficoltà dei ruoli che dobbiamo rivestire. Ci sta benissimo anche questo pianto e i bambini giustamente reclamano attenzione. E dicevo a proposito della difficoltà dei ruoli, ecco, abbiamo capito, non che avessimo dubbi su questo, di quanto è difficile il ruolo del padre. Io non so se dire oggi più di ieri, anche perché insomma qui devo confessarle professore un attimo di confusione su veramente sulla difficoltà di questo ruolo e su quello che è meglio, perché appunto abbiamo visto che questa figura del papà mammo, che è una figura molto moderna, forse da quello che lei giustamente ci diceva, non è sempre quantomeno una figura vincente o non lo è comunque al 100%. Ci ha delineato questa figura del papà marinaio assente ma portatore sano di amore e di entusiasmo, quindi insomma verrebbe alla fine da chiedersi insomma ma che cosa dobbiamo fare? Ma qual è il ruolo in cui appunto bisogna scendere per essere un buon genitore? Io sono una donna e quindi mi sento invece nel ruolo di mamma, che appunto è un ruolo altrettanto difficile. Il passaggio forse in assoluto che più mi è piaciuto di questa relazione così articolata, che è partita dalla fragilità anche della coppia, quindi da qui la fragilità dei ruoli, insomma avrete molti spunti di riflessione poi nella seconda parte di questa giornata, appunto durante gli interventi che farete, quando ha parlato del ruolo del padre che passa dalla bonifica della coppia genitoriale, proprio a testimonianza del fatto di quanto siano importanti entrambi i ruoli. E poi da mamma e da genitore appunto mi è sembrato di capire anche che è assolutamente importante anche il modo in cui noi educhiamo i nostri figli, e poi quell'altro aspetto dell'educazione appunto anche alla sessualità, perché ovviamente i bambini che abbiamo saranno i futuri genitori di domani. Quindi a questo punto grazie ancora al professor Poterzio che abbiamo ascoltato, ho visto anche una platea particolarmente interessata e attenta. E a questo punto mi pare, io chiedo conferma a Giovanni Di Rosa, possiamo anche concludere qui